Va ora in onda Rock Revolution. About destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright, alright. You say you got a real solution. Money for people with minds that hate. All I can tell you is, brother, you have to wait. Don't you know it's gonna be alright. In diretta dagli studi radiofonici di CRM Happy Radio, va ora in onda Rock Revolution. Presenta Filippo Brancati. Buonasera, buonasera, ben trovati a questa nuova puntata su CRMP Radio con Rock Revolution, il programma rock dedicato agli artisti emergenti, ma anche grandi artisti e tutti quelli, insomma, che hanno fatto parte della storia indimenticabile della musica nazionale ed internazionale. Quindi un'altra giornata, un'altra puntata con tantissimo materiale di cui parlare. Tra l'altro, una bellissima sorpresa: questa sera parleremo con il cantante nonché fondatore del Banco del Mutuo Soccorso per parlare di un concerto che tra l'altro avremo pochi giorni dalle nostre parti. Poi ancora conosceremo una band da Roma, loro sono i Music Phobia, e quindi ascolteremo la loro musica, conosceremo il loro progetto, vi daremo poi anche tutte le coordinate per andare a scoprire il loro MySpace ed ascoltare altra musica. Dico altra perché ascolteremo anche una bella canzone proprio che ci proporranno. Poi da Palermo The Shapes, intervista di questa settimana, in studio con noi questa band palermitana davvero molto forte che conosceremo e che tra l'altro ci faranno anche ascoltare una canzone credo dal vivo. Saluto subito il mio collega Simone, buonasera Simone. Buonasera, buonasera a te Filippo, buonasera a tutti gli amici di Rock Revolution. Anche questa sera, insomma, siamo pronti all'attacco e diamo subito le coordinate per mettervi in contatto con noi, così che possiate, insomma, esprimere il vostro giudizio o commento o saluto o dedica, insomma, fate un po' quel che vi pare. Allora, rockrevolution.it è il nostro sito internet, poi su Facebook Rock Revolution Redazione è il nostro profilo con il quale potete anche chattare, oppure i contatti dalla nostra emittente CRMP Radio, la radio che si sente e si vede, il suo sito internet crmpradio.it oppure sempre su Facebook CRMP Radio. Insomma, avete tutte le coordinate. Ah, gli SMS 335 56 37 251 è tutto. Adesso tocca a voi anche tenerci compagnia, parte integrante di Rock Revolution. Iniziamo subito con la prima canzone di questa sera, un tormentone. Tra l'altro una bella canzone degli Egyptian di parecchi anni fa, ripresa fantasticamente con questo suono anche un po' elettronico, assieme al Planet Funk con These Boots Are Made For Walking. Inizia ufficialmente la nuova puntata di Rock Revolution. Alzate il volume e rock and roll. You keep saying you've got something for me, something you call love but confess. You've been messing where you shouldn't have been messing. They're gonna walk all over you. gonna walk all over you. Planet Funk torna all'attacco con questa bella canzone, These Boots Are Made For Walking. Molto molto bella, molto elettronica. Anche questa sera CRMP Radio in diretta Rock Revolution. Avete tutte le nostre coordinate, già sappiamo che ci sono diversi amici che si sono messi in collegamento con noi. Adesso vi salutiamo pian piano, promesso, stavolta lo faccio per bene. In attesa delle interviste, tra l'altro parleremo anche con Francesco Quartararo da PalermoNotizie.it per conoscere quelli che sono gli eventi più interessanti di questa settimana nel palermitano, ma non solo, quindi fra pochissimo parleremo di eventi, di belle serate, insomma. Prossima canzone in arrivo, un grandissimo artista, e beh, questo è il suo nuovo ultimo successo. Parliamo dell'eclettico Lenny Kravitz, non molto in TV ultimamente, devo dire, un po' riservato, rimane sempre un grandissimo artista, e questo appunto è il suo ultimo successo, si intitola Come On Get It su CRMP Radio. I can't. CRM Happy Radio Rock Revolution, l'appuntamento rock di CRM con ospiti, interviste e speciali su artisti emergenti e sui big del mondo della musica nazionale e internazionale. Rock Revolution è anche su internet all'indirizzo www.rockrevolution.it. Non so se ci avete fatto caso, ma in questa canzone i canali stereo sono molto particolari, perché da una parte, no, il canale sinistro ascoltate insomma, l'accompagnamento, e in quello destro la voce. Questa è una cosa, insomma, una tecnica che si usava qualche anno fa, parliamo dei Beatles, quindi insomma lascio a voi immaginare, però molto particolare, perché tra l'altro se mettete soltanto un canale a suonare potete anche fare da karaoke praticamente. Vabbè, piccole curiosità. Questi erano i Beatles con Day Tripper all'interno di Rock Revolution. Allora, anche questa settimana ci mettiamo in collegamento, sapete, è giunto il momento di parlare con Francesco Quartararo per conoscere quelli che sono gli eventi più interessanti della settimana a Palermo e zone limitrofe. Francesco, buonasera. Buonasera. Abbiamo anticipato l'intervista con te con una bellissima canzone dei Beatles, hai gradito? Sì, ho sentito. Io invece, che ti devo dire, questa settimana Carnevale domina, quindi diciamo che il nostro appuntamento diventa appuntamento carnevalesco, perché praticamente abbiamo serate spiattellate da ieri, tra l'altro, da giovedì fino a martedì abbiamo serate per tutti i gusti, tutti i tipi, in tutte le salse, in tutti i costumi, non in tutti i laghi. Ah. Però le abbiamo praticamente tutte. Bene, bene. Quindi, non so, io ho fatto una raccolta, visto anche il periodo, dei peggiori scherzi da fare o da non fare mai in questo periodo. Senti, a Palermo come è vissuto il carnevale? Sappiamo, insomma, che in Sicilia ci sono tante città, Cireale, Sciacca, insomma, anche termini dove il carnevale è molto sentito. Invece, perlomeno a Cefalù, comunque nei comuni delle Madonie, un po' meno. Invece a Palermo com'è la situazione? Ma a Palermo diciamo che c'è stata l'invasione di Halloween prima, che ha un po' spento, diciamo così, gli entusiasmi carnevaleschi, l'invasione del cosiddetto cosplay, vale a dire una sorta di, diciamo così, di riunione di appassionati di manga, fumetti e cartoni animati, e che quindi si vestono a tema. Quindi puoi trovare una moda che va fortissimo in Cina, a Shanghai. Sì, diciamo che da un lato ci hanno invaso da Occidente con Halloween e comunque la la moda dei vestiti carnevaleschi, magari un po' horror, da est invece sono arrivati i cartoni animati. Infatti, quindi le maschere spariscono un po'. Beh, e forse sarà anche un po' più semplice sapere da cosa travestirsi in questo modo, visto che comunque... Sì, ma il rischio è anche che i travestiti tradizionali, insomma, vengano così... insomma, sarà più facile travestirsi, mettiamolo così. Va bene, senti, stasera tra l'altro parleremo con una band storica del panorama della musica nazionale, una band dei primi anni 70, parliamo del Banco del Mutuo Soccorso, che sarà a Palermo in concerto, quindi questa è un'altra chicca che ti volevo anticipare, sarà il 24 febbraio, il prossimo venerdì, al Teatro Dante di Palermo, quindi il Banco del Mutuo Soccorso. Questa sera parleremo con il mitico cantante, tastierista, nonché fondatore della band. Ecco, ci tenevo a ricordare questo evento, poi ne parleremo meglio con loro direttamente. Dicevo, a parte di soccorso anche mutuo ce n'è sempre bisogno. Dicevo, i peggiori scherzi da fare. Diciamo che ora non ti sto a dire quali ho praticato e quali ho sperimentato dal vivo, però diciamo che i citofoni squillano parecchio. Mamma, che antipatica sta cosa, guarda. Poi però c'è la variante scimmia. In cosa consiste? Il citofono con scimmia corrisponde nel portare un amico praticamente fracco e ubriaco, e farlo girare al punto da fargli perdere il senso di orientamento e fargli fare lo scherzo citofono a casa propria. Terribile, insomma, poi soprattutto se ci sono i genitori a casa che stanno dormendo. Ecco, la soluzione ideale. È una variante, insomma, carina. E poi un'altra che è ancora peggiore, che prevede la simulazione di un, diciamo così, di un rapimento, però insomma, cioè, io l'ho detta, ma giusto così per riderci su, poi a carnevale ogni scherzo vale. Certo. Diciamo che ho assistito anche a questo genere di scherzo, ovviamente magari da non ripetere ovunque. Ma l'hanno fatta a te, di la verità. Non è che l'hanno fatto a me, ti dico soltanto che una persona attraversava le strisce pedonali, è arrivata una macchina sgommandola, cinque persone l'hanno preso e sbattuto dentro e sono sgommate via ridendo, poi ovviamente ho capito che era uno scherzo. Tremendo, tremendo. Senti, a parte queste cose terrificanti che mi hai detto, che auguro di non vivere prossimamente... Non so, vabbè, poi c'è il, come ti dicevo prima, lo scherzo del travestimento / travestito, però quello insomma dipende da... sembra un po' un racconto da Una notte da leoni, non so se... Decisamente, certo. Decisamente. A volte capito anche queste cose. Per il resto, ti dicevo, Palermo invasa da cosplay e da maschere più o meno horror, poi comunque rimane l'unica vera tradizione locale, che è quella del carnevale di Termini Imerese. Esatto, che sì. Quest'anno risente pesantemente la crisi, perché insomma, voglio dire, questa è storia di tutti i giorni, però insomma... Sopravvive. Sopravvive, ci sono un paio di ospiti musicali che magari non appassioneranno il pubblico di Rock Revolution, né tantomeno me, a essere sincero, però poi trovi anche lo Zoe 105, trovi insomma un po' per tutti i gusti, diciamo. Sì, insomma, bisogna divertirsi, ogni tanto è anche giusto non pensare ai problemi tutti i giorni e divertirsi. Assolutamente. Magari non in maniera troppo balorda, poi ognuno a modo suo. Senti, volevo farti una domanda prima di salutarci, volevo chiederti insomma se hai visto Sanremo e cosa ne pensi. Ale, ecco, domanda di rito, siamo in periodo Sanremo, non potevamo non farti questa domanda. Allora, io sì, vado contro tendenza, ho visto Sanremo e non me ne pento. Quantomeno, ieri sera è stato veramente uno spettacolo, secondo me fantastico, nel senso bella che, l'esibizione di Patti Smith, Brian May. Però, ecco, proprio quella, Brian May, Irene Fornaciari, secondo me hanno fatto qualcosa di mostruoso. Ripeto, degli artisti che si sono esibiti ieri sera, è più difficile trovare qualcuno che abbia tra virgolette floppato, piuttosto che un'esibizione, per dire, un artista che io insomma di cui sento parlare, si chiama Gigi D'Alessio, anche con Messi Gray ha fatto qualcosina di interessante. Sì. Irene Fornaciari con Brian May, Patti Smith e Marlene Kunz, che non ho capito, hanno chiamato i Subsonica perché il cantante è senza voce, non... ti assicuro che ho provato ad alzare, cioè, tutte le volte che ho sentito ho detto, ma che sta succedendo? Ecco, è la cosa che ci siamo chiesti un po' tutti. Era cosa che non lo sentivo. Senti, ma siccome ormai tu, oltre insomma essere giornalista per fatti tuoi, ma anche per noi, sei ormai diventato quasi un opinionista di Rock Revolution, allora ci sentiamo di chiederti, insomma, qual è la canzone che ti piace di più? Anche qui, la canzone che mi piace di più, non ti saprei dire esattamente qual è quella più interessante, però ti posso indicare che il modo in cui Nina Zilli canta la sua canzone, diciamo che sicuramente è molto interessante, nel senso molto che particolare, oltre la cioè riesce a esprimere la sensualità della canzone sia col corpo che con la voce. Sono d'accordo. Ma comunque ci sono state davvero tante canzoni molto molto belle, anche di insomma Emma, Noemi, l'altra ragazza mi si chiama, non mi ricordo più. Comunque diciamo, tutte ragazze, tra l'altro molte dal programma Amici di Maria De Filippi hanno avuto. Il problema è proprio quello, nel ripescaggio di ieri Irene Fornaciari, che sicuramente ha fatto una performance secondo me migliore rispetto a quella iniziale, anche perché finalmente ho capito cosa diceva all'inizio, perché c'era proprio un problema di non scandiva le parole, ma ci sta, alla fine è una gara. Io parteggiavo un po' per Irene Fornaciari, perché insomma è sì la figlia di Zucchero, però è una ragazza con una bella voce, capacità. sì, una voce molto particolare. Francesco, io starei con te a parlare per ore, credimi, però il tempo purtroppo è tiranno. Questa sera tante interviste, anzi continua a seguirci, ci fa chiaramente molto piacere. La volta scorsa insomma parlavamo di Litfiba, sì. E poi sono riuscito in extremis a darvi la certezza che insomma il concerto Cirreale non solo c'è, ma se riuscite a inviarmi là, io ho già i biglietti, quindi vediamo se li becchiamo a Ghigo e Piero. Ecco, guarda, hai aperto la strada, perché colgo l'occasione per farti sapere che i Litfiba saranno a Rock Revolution per parlare del loro tour, della loro data qui in Sicilia, quindi li avremo con un'intervista telefonica, Piero e Ghigo, quindi se anche tu hai da preparare qualche domanda da porre loro, ben volentieri, va bene? Guarda, ti posso fornire pure gli indirizzi di casa. Guarda, se avete passare questo. Va bene, Francesco, grazie sempre di tutto quello che fai. Un abbraccione, alla prossima settimana, va bene? Grazie a voi e buon carnevale a tutti. Grazie anche a te, Francesco Quartararo, da Palermo, corrispondente per Rock Revolution. Continuiamo con la musica, abbiamo parlato tanto, però si deve parlare. Insomma, sono cose di questi giorni importanti, non si può non parlare di Sanremo, no? E riprendiamo con il rock. CRMP Radio, questo è Rock Revolution. Nuovo successo per i Cake, si intitola Sick of You. I'm so sick of you, so sick of me, I don't want to be with you. I'm so sick of you, so sick of me, I don't want to be with you. We'll be right back. mancare l'appuntamento di ogni venerdì alle 21 su CRM con Rock Revolution, il programma rock di CRM con ospiti, interviste e speciali su artisti emergenti e sui big del mondo della musica nazionale e internazionale. Erano i Wild Lies con To Lose My Life su CRMP Radio. Adesso devo dire, insomma, una cosa bella, ho una notizia fantastica, perché ho l'onore e il piacere di essere al telefono con la storia, praticamente, la storia della musica. Parliamo con Vittorio Nocenzi. Vittorio, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera e benvenuto a Rock Revolution. Senti, grandissima band, 44 anni, quanti anni sono? Al momento sono 40 di concerti, per il 44esimo andremo avanti fra un po'. Stiamo parlando con il Banco del Mutuo Soccorso, band storica che ha, insomma, fatto la storia della musica italiana. Come si è evoluta secondo te la musica italiana da quando avete iniziato voi a suonare ad oggi? Bah, si è evoluta come si è evoluta anche la società, cioè, sono quattro decenni diversi, quattro storie diverse. Quattro quadri di insieme diversi. Gli anni 70 erano il momento della costruzione di un'ipotesi alternativa, di un'utopia che voleva diventare realtà. Gli anni 80 sono stati il consumismo e l'inizio del playback della musica di plastica, però per altri versi ancora grandissima musica. Gli anni 90 un recupero di speranza rinnovate dopo il crollo del muro di Berlino, eccetera. Certo. Gli anni 2000 sono quelli che stiamo vivendo, una situazione complessa, complicata, con una grande nuova realtà che è internet, che è la rete, che per un verso ci dà dei veleni e delle tossine, per altre dei grandi momenti di libertà e di opportunità. Assolutamente. E quindi d'accordo. In questo modo la musica, che è un'espressione del proprio tempo, un amplificatore delle quotidianità, come dire, le interpreta e le fa proprie, per cui sono quattro mondi completamente diversi. Qual, ce n'è uno che preferisci fra questi mondi? Quello che deve venire, il prossimo. Bellissimo, bellissimo. Noi insomma ci auguriamo che il Banco del Mutuo Soccorso possa continuare ad libitum nella storia della musica italiana, veramente grandissimi. Senti, Vittorio, allora il 24 febbraio sarete a Palermo con, al Teatro Dante, con questo concerto. Sì, diciamo che è un inizio, un ribadire, ecco, questo, questo nostro voler festeggiare senza torte, senza candeline, insomma, proseguendo a fare quello che abbiamo sempre fatto, incontrare la gente, suonare, fare dei concerti pieni di energia, di idee, spero, e soprattutto di grande voglia di incontrare l'ascolto e chi fa proprio la nostra musica. Avremo ospiti graditissimi, special guest, Le Orme, quindi sarà un concerto aperto da loro, poi ci sarà la nostra, il nostro concerto, arriveremo al bis e poi al bis chiameremo di nuovo insieme con noi Le Orme, con una conclusione da una band complessiva di 12 persone sul palco, dove suoneremo i brani dell'una e dell'altra band. Ma il giorno dopo saremo a Reggio Calabria, poi risaliremo Firenze, Cesena, Pordenone, ed è la prima parte della, della prima tournée. Poi nel frattempo è uscito il primo dei due libri, ci sarà un secondo libro che uscirà penso a metà dell'anno, la prima biografia ufficiale del banco, poi ci sarà un CD in nuovo da studio, integralmente registrato da studio, di cui un primo brano sarà pronto per la fine di aprile, inizio di maggio. Sì. Ci sarà poi a conclusione un DVD speciale, perché oltre a raccogliere il meglio delle due tournée che faremo nell'anno, oltre a questa invernale sarà anche quella estiva autunnale, poi ci saranno un sacco di racconti di cose inedite, insomma siamo dei bellissimo, sentiti bellissimo. Che non hanno mai voluto raccontare niente di sé, abbiamo sentito insomma il dovere di farci perdonare. È giusto, e ringraziare soprattutto quei giovani che sono tantissimi ai concerti che stiamo facendo, per raccontargli un po' dalla nostra viva voce un po' della nostra storia. È una cosa bellissima sia per i fan poter condividere assieme a voi questo momento, diciamo un nuovo punto di partenza, perché comunque il Bando del Mutuo Soccorso è una band che tantissimi in Sicilia amano. Infatti noi oggi abbiamo postato sul nostro profilo Facebook che questa sera avremmo parlato con te, e abbiamo avuto tantissima gente, tantissimi saluti, tantissima gente ansiosa insomma di potervi incontrare a Palermo. Guarda, prossimamente. Mi fa molto piacere, perché devo dire che a tutti noi, ma a me in particolare, la Sicilia mi è veramente molto molto molto cara. È una terra magica, unica, incredibile, la Trinacria è l'incrocio di storie, di leggende, di miti, di dolore, di sacrifici, di cose certo. brutte, ma anche di grandi slanci, di grande sensibilità. Io mi ricordo veramente con particolare nostalgia i concerti mitici presso il Teatro Biondo. Ecco, piuttosto ho visto che a Palermo ci sono pochi spazi per fare musica, questo mi dispiace tantissimo. Sì, sì, è proprio così, purtroppo. Da troppo poco tempo, da troppo tempo dico, però ecco, vorrei spendere due parole per l'importanza invece degli spazi per la musica. Sono dei luoghi dove si cresce, ci si racconta le proprie vite, le proprie emozioni. Assolutamente d'accordo. E Palermo l'ho vista, ecco, brutta questa cosa, l'ho vista con degli spazi ristretti. Ho avuto il piacere di vedere per esempio un luogo bellissimo dove c'è una scuola jazz, mi hanno detto che forse la cacciano, io spero che invece ne ampliano gli spazi, certo, perché se non possono accadere queste cose. Sì, purtroppo anche formale, ufficiale, alle autorità palermitane, date spazio alla musica, è un luogo di crescita sociale, culturale e civile. Assolutamente, ci uniamo a questo tuo appello. La musica è importante anche dal punto di vista forse amministrativo, burocratico, ecco, per quanto riguarda il dare la possibilità ai gestori di locali di far musica, aiuta la città a crescere anche dal punto di vista artistico, perché la musica è arte. Ma ci sono tantissimi giovani, abbiamo un bagaglio, una riserva di talenti che non sanno dove, come potersi esprimere. È veramente qualcosa di doloroso per la mia generazione. Speravamo di costruire un'altra prospettiva. Dobbiamo uscire fuori dal luogo comune, dalla banalità. Ricerchiamo la diversità, le idee. È questo che si aspettano i nostri giovani. È questo che dobbiamo dare a loro. Assolutamente. Vittorio, noi siamo contentissimi di vederti presto a Palermo il 24 febbraio al Teatro Dante a festeggiare assieme a voi questi 40 anni del Banco del Mutuo Soccorso. Grazie e a presto, un grandissimo in bocca al lupo. Grazie a voi tutti, vi auguro di, mi raccomando, programmate anche della buona musica, non soltanto musica commerciale. Assolutamente lo facciamo. Zoom pa zoom, dato un po' di sogno. Assolutamente, lo facciamo sempre e con bravi, tanto con tanto impegno. Grazie Vittorio, un auguri, abbraccio ciao, anche a te. A ciao, grazie. Ciao, ciao. Il Bando del Mutuo Soccorso su CRMP Radio, ho sbagliato. Cosa ho detto? Mi correggo dall'altra parte della regia, forse ho detto qualche parola sbagliata. Vabbè, perdonatemi, insomma. È l'emozione di parlare con la storia della musica. Ascoltiamo una loro canzone storica. Parliamo di Moby Dick. Grande Moby Dick, dove saranno tutti gli amanti che hai? Dolce Moby Dick, nessuno t'ha baciata mai. Grande Moby Dick, regina madre, segui le stelle che sai. Non fidarti della croce del sud, la caccia non finisce mai. E danzerai sul panse. rock è la tua passione, non mancare all'appuntamento di ogni venerdì alle 21 su CRM con Rock Revolution, il programma rock di CRM con ospiti, interviste e speciali su artisti emergenti e sui big del mondo della musica nazionale e internazionale. You need to... Bottoms Up, questi sono i Nickelback. Bottoms Up è un singolo della band statunitense Nickelback, uscito il 26 settembre del 2011, contenuto all'interno dell'album Here and Now. Questa è Rock Revolution in diretta su CRMP Radio, la radio che si sente e che si vede, spazio alla musica emergente, spazio alle novità musicali. Arriva il momento di metterci in collegamento con la bella Roma, adesso vediamo se è esattamente proprio la città oppure nelle vicinanze, comunque con una band che vi consigliamo assolutamente di conoscere. Parliamo di dei Music Phobia. Vi ricordo il loro sito MySpace, www.myspace.com/themusicphobiaband. Siamo al telefono con Michelangelo. Michelangelo, buonasera, benvenuto a Rock Revolution. Buonasera a voi. Allora, iniziamo con la domanda classica: chi sono Music Phobia? Allora, i Music Phobia sono una band, diciamo, che ha la sua radice principale nel grunge, nel post-grunge, nel senso siamo un gruppo di quattro ragazzi che cercano di una propria identità per una fare del rock con tanti tipi di sfaccettature, ma insomma la passione vera per il grunge, il post-grunge, diciamo il collegamento con la musica anni 90. Certo, senti, quali sono sostanzialmente le differenze, se ce ne sono chiaramente a livello musicale, tra voi del 2005 e quelli insomma attuali, e il vostro sound attuale? Diciamo che avevamo iniziato in maniera forse con delle sfaccettature un po' più rozze, un po' più acide, mm-hmm. era siamo quattro ragazzi che veniamo da quattro realtà abbastanza differenti. Io che vengo da un passato air metal degli anni 80, poi passare al grunge, il batterista dal genere funky, il chitarrista che ha delle neoclassiche, musica classica, e infine il bassista che addirittura dal death metal. Ci siamo tutti fusi per un progetto che comunque sia ha diverse inclinazioni in un luogo comune, che comunque sia quello del grunge, però le sonorità sono diverse. Adesso siamo molto, molto più di impatto, mentre prima eravamo un po' più rudi, un po' più di pancia. Senti, diciamo. Di cosa parlano le vostre canzoni, la vostra musica? Principalmente, dirò una cosa banale, ma di vita di tutti i giorni. Mm-hmm. Parlano semplicemente di noi, della situazione sentimentale, lavorativa, diciamo un po' tutto quello che ci capita. Almeno a me piace scrivere semplicemente di quello che conosco, no? Di quello che magari qualcuno mi dice. Certo, assolutamente. Senti, allora, noi questa sera ascolteremo una canzone davvero molto bella, Undivided. Di cosa parla questa canzone? Undivided parla delle paure. Delle paure che... Perché il titolo Undivided? Nel senso, il significato è che l'uomo è quasi indivisibile dalla paura. Perché la paura non è poi vista solo in senso negativo, perché tutti vediamo le paure come se fosse una fobia, tanto per rimanere certo in tema. Ma le paure sono quelle che poi ti permettono di raggiungere il risultato, di mettere poi il cuore oltre l'ostacolo. È in poche parole lo stato sostanziale dell'essere umano con i propri limiti. E Undivided parla delle paure. Siamo ansiosi di ascoltarlo da Roma, i Music Phobia. Vi ricordo i loro MySpace, The Music Phobia Band. Ascoltiamo questa sera Undivided. Ragazzi, complimentoni, in bocca al lupo per il vostro futuro musicale. Grazie, rock and roll. Ciao ragazzi, grazie. ciao. E quindi arrivano loro, ascoltiamo questa canzone davvero molto molto bella. Su CRMP Radio, la musica emergente, questa sera da Roma. Grande sound, loro MySpace, ve lo ricordo ancora una volta. The Music Phobia Band, per ascoltare la musica, guardare un po' di foto, insomma, conoscere meglio di questo progetto musicale romano molto molto interessante. Se avete una band, scriveteci redazione@rockrevolution.it per segnalare la vostra esistenza e magari essere ospiti di Rock Revolution per far conoscere la vostra musica su CRMP Radio e su internet su rockrevolution.it. È un brindisi a chi vive il rock. Ora sorridi, fai di sì con la testa e fammi vedere le pupille dilatate di chi ha visto chissà che. Sì! Rock Revolution, molto rock. Well, I got a fever, another fever. I'm in a state of grace. For I am a Caesar, I'm on a Caesar day. Attimi di suspense quando un brano è lì per finire e poi riprende e magari non lo conosci, quindi sei lì per parlare, poi ah! ACDC e Green Day in questi due brani in sequenza su CRM Radio con Rock Revolution, il programma dedicato al rock and roll, alla musica emergente, alla storia della musica su CRM Radio. Tra pochissimo il Rock for You, i quattro successi rock in sequenza senza interruzioni. Questa settimana, insomma, Rock for You eccezionale, con dei pezzi storici da non perdere assolutamente. Subito dopo il Rock for You invece avremo la band qui in studio con noi, quindi se volete visitate il nostro sito rockrevolution.it o crmpradio.it per guardare le interviste. Questa settimana abbiamo da Palermo The Shapes, bellissima musica come quella dei Cranberries. Questa è Just My Imagination. There was a game we... Just my imagination. It was just my imagination. cari amici su internet, su Facebook, ci tengono compagnia Carlo, Luana, Marisa. Grazie ragazzi, buon ascolto. Questi erano i Cranberries con Just My Imagination. Tra pochissimo, subito dopo il Rock for You, i quattro successi rock in sequenza senza interruzioni, avremo in studio The Shapes da Palermo, quindi se volete interagire con loro fatelo pure, è una band emergente palermitana. Usate il nostro profilo Facebook Rock Revolution Redazione, oppure inviate degli sms al 335 56 37 251. Ah, ecco, mi comunicano dalla regia che c'è anche il nostro sito, il sito della nostra radio, quindi crmpradio.it, c'è un modulo per inviare messaggi, molto semplice. Va bene, allora adesso Rock for You, quattro successi rock in sequenza senza interruzioni. Se il rock è la tua passione, wow! Non mancare all'appuntamento di ogni venerdì alle 21 su CRM con Rock Revolution, il programma rock di CRM con ospiti, interviste e speciali su artisti emergenti e sui big del mondo della musica nazionale e internazionale. Rock for You, quattro successi rock in sequenza senza interruzioni. Just to cover. Rock for You, 4 successi rock in sequenza senza interruzioni. We'll be right back. Rock for You, quattro successi rock in sequenza, senza interruzioni. You saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Dang it, dang, dang, ding it on. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms would ever. Bum bum bum bum dang dang dang ding it on ding boom. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum dang dang dang ding it on ding boom. Rock for You, quattro successi rock in sequenza senza interruzioni. Ho visto che è venerdì 17, no? Ho detto ai ragazzi una parola di buon auspicio. Allora, questa sera siamo pronti con l'intervista di questa settimana da Palermo The Shapes. Buonasera. Ah, c'è la presentazione ospiti. Va bene, facciamola subito, via. Ladies and gentlemen, Rock Revolution ha il piacere di presentare gli ospiti della settimana. Mi stavo dimenticando del momento più bello di tutta la trasmissione, quella dove mi sento un po' circense. Le tigri ancora non le ho viste nello studio, però nonostante avessi fatto diverse volte richiesta, questa è una cosa che devo segnalare per favore alla direzione. Allora, siamo pronti a iniziare l'intervista di questa settimana con The Shapes. Buonasera. Ciao a tutti. Oh, bene, guarda quanti bei ragazzi abbiamo questa sera qui con noi in studio. Allora, loro vengono da Palermo. I nomi: Gabriella Ricciardi, voce e pianoforte, tastiere. Poi Marco Lofranco, voce, batteria, rhythm guitar e tastiere. Gabriele Tagliareni con lead guitar e tastiere. E poi Alberto al basso. Ragazzi, buonasera, questi sono gli Shapes da Palermo. Allora, iniziamo subito con... Però non vi sento particolarmente entusiasti, cioè un po' più di siamo carica. Un po' emozionati. Un po' di carica, un po' di rock and roll. Allora, iniziamo con una breve presentazione della vostra band. Chi vuole parlare? Parlate vicino al microfono. Perfetto. Okay, perfetto, allora. Oh, allora, appunto, tu sei così Alberto. Alberto, così anche gli amici in webcam possono riconoscerti. Bene, Alberto, allora, come nascono, quando nascono The Shapes? Allora, The Shapes nascono nel novembre del 2011. Però sono figli di un progetto precedente che, diciamo che riguardava Gabriele, Marco e me. Uh-huh. Che parte dal 2005, quando appunto cominciamo come gruppo di cover delle docce di Peppers e poi diventare successivamente un gruppo di soli inediti che erano appunto gli Anonymous Shapes. Successivamente diciamo che abbiamo cominciato così da capo. Insieme con noi il nuovo componente, che è appunto Gabriella Ricciardi. Come ecco, cantante. Infatti, nel mezzo del cammin di vostra vita avete riscoperto la bellezza di una voce femminile con il rock. Praticamente sì, esatto. Quindi gli Shapes nascono, possiamo dirlo, dalle orme degli Anonymous Shapes. Si tratta di una vera e propria trasformazione della band, oppure per voi si tratta di una nuova band? Quali sono le differenze più evidenti fra il sound di prima e quello di adesso, oltre alla voce chiaramente femminile? Allora, innanzitutto siamo una nuova band, di fatto. Siamo appunto una nuova band dove c'è una voce femminile, abbiamo delle sonorità anche diverse. Diciamo che siamo più... forse probabilmente siamo più pop. Mm-hmm. Diamo più particolare attenzione di più al suono acustico, un suono più semplice, una presenza anche di alcuni strumenti elettronici come tastiere e synth. Abbiamo insomma un suono più morbido. Più morbido, bene. Io direi subito, perché la scorsa puntata gli ascoltatori mi hanno detto: avete parlato un sacco e non ci avete fatto ascoltare la musica. Noi ascoltavamo e poi, però, al momento della musica non l'abbiamo ascoltata. Allora, subito tagliamo corto e diamo spazio alla musica con il primo brano di questa sera, un brano di cui adesso parleremo subito dopo averlo ascoltato. Registrato in studio, poi i ragazzi faranno anche due brani dal vivo qui per noi, in versione acustica, molto molto particolare. Quindi, primo brano di questa sera. Poi dobbiamo parlare anche del vostro MySpace. Si intitola Every Day, Every Night, a Rock Revolution. In the cities we met, with them a shun curling where you need air, we're burning pride is out low, start to crawl. I'm blurring all my senses now. We don't care of this darkness. Every time. The Shapes, Every Day and Every Night. Sì, Happy Radio. E tra l'altro anche una nostra jingle, non so se lo sapete, però Every Day and Every Night CRMP Radio, una jingle della nostra radio, quindi questa canzone mi sa che adesso la mettiamo in rotation con l'aggiunta, magari se ci fate una canzoncina tipo codino di CRM e poi è perfetta. Molto volentieri. The Shapes da Palermo, questa sera Rock Revolution, Alberto, Gabriella, Marco, Gabriele con i loro strumenti, sono pronti a farvi sentire la musica dal vivo. Sappiamo che ci sono tanti amici su internet e su Facebook che stanno seguendo anche in audio, in video streaming, quindi sappiate ragazzi che siete anche in televisione, su internet, in tutto il mondo. Così insomma adesso potrete gustare, oltre che dal punto di vista sonoro, anche dal punto di vista visivo degli Shapes, che suoneranno due canzoni in versione acustica. Prima volta che eseguite in versione acustica, o avete avuto già delle esperienze in versione acustica? Questi brani in particolare sì, è la prima volta questi brani. Prima volta, oh che bello. Tra l'altro è anche la prima volta in radio per Gabriella, no? Sì. Com'è questa esperienza? Cosa ti immaginavi la radio? Ma così come la vado, onestamente. Perfetto, è bello. A me lui arriva preparato a vivere le cose. Persona realista. Bene, bene. Allora, qualche altra domanda? Nel frattempo, se volete porre qualche domanda a The Shapes, fate pure via SMS al 335 56 37 251 dal nostro sito internet crmpradio.it, oppure su Facebook Rock Revolution Redazione. Poi, tra l'altro, ecco, parliamo anche di Facebook per quanto vi riguarda, ovvero voi avete già un profilo, no? Per così gli ascoltatori possono andare a guardare. Allora, su Facebook siamo i The Shapes. Siamo, tra l'altro, ci sono altre tre band, ma noi siamo quelli con la tazzina, per specificare. Perfetto. Che è la nostra copertina. Allora, siamo anche su SoundCloud, le canzoni sono lì. Perfetto, insomma, queste sono le coordinate per ascoltare. C'è della musica, immagino, caricata, quindi si può andare ad ascoltare, sì. Delle foto, delle informazioni e quant'altro. Ecco, accolgo l'occasione per fare un appunto a tutte le band, o molte delle band che sono state ospiti di Rock Revolution e che hanno portato il loro MySpace. Non c'è un riferimento telefonico. Ecco, secondo me questa è una cosa importante, perché un datore, un proprietario di un locale, oppure una persona comunque che vuole mettersi in contatto con voi per farvi suonare, ha bisogno di un riferimento da chiamare, da contattare, no? Noi su Facebook l'abbiamo messo. Ecco, bravi, avete fatto bene. Ecco, questa è una cosa, perché ho notato questa cosa qui per diversi MySpace: non c'è il numero di telefono, una persona che vuole contattare non sa come farlo. Quindi ragazzi, mettete il numero di cellulare su MySpace. Oh, non mi fate arrabbiare. Oh. Allora, The Shapes qui a Rock Revolution. Questa sera ascolteremo quindi due belle canzoni. Direi di iniziare subito con la prima. Come si intitola? Di cosa parla? A chi parla? Chi parla? Marco. La prima canzone che vi faremo ascoltare si chiama Surround Me, il nostro primo singolo uscito con l'EP che stiamo lanciando in questi giorni. Tratta sostanzialmente dell'incapacità di lasciare andare qualcosa a cui si tiene tantissimo, per quanto comunque la seconda scelta potrebbe benissimo essere quella proprio di riniziare da capo qualcosa e quindi avere un nuovo inizio. È un po' una scelta che bisogna più o meno prendere quasi ogni giorno nella vita. No, è bello perché poi ci si mette in gioco, no? Quando ogni volta c'è un nuovo inizio ci si mette in gioco e quindi diventa tutto più nuovo, più interessante da vivere. Quindi ascoltiamo questo nuovo inizio degli Shapes con questa fantastica canzone in diretta in versione acustica su Rock Revolution, quindi buon ascolto. I go home, oh my breath, while you choose everything, but I won't make a sound. Appearing like a fool, and no matter what they say, the middle ground, you live on the ground, and no matter what they say, never be so ashamed. I can't leave you behind because of you, maybe I can't feel the same. Oh, how long with tears around, I become so much stardust. Whoa, I guess you, we don't serve. Even burning, I can't hard. And no ragazzi, complimenti veramente. Sono estasiato da questa canzone, veramente molto coinvolgente, molto bella. E di cosa parla? E fondamentalmente parla appunto del prendere scelte quotidianamente, non pensando troppo a cosa si perde nel momento in cui, ovviamente, riniziando un progetto nuovo, potrebbero essere ottenuti molti più risultati, e risultati molto più importanti e grandi, come anche nel momento in cui si rinizia qualcosa, ricordare sempre che fondamentalmente tutto ciò che ci si è lasciati alle spalle è tutto ciò che ci rende ciò che siamo. Bene, ma ve ne siete preparate queste risposte, ragazzi? Proprio lisce come l'olio, eh? Sentite, parliamo delle vostre esperienze musicali, cioè, no? A me piace sempre chiedere agli artisti che vengono qui a Rock Revolution quali sono gli artisti che si è amato, insomma, per tutta la vita, si è ascoltato le canzoni. C'è una band che tu, Gabriele, ami in modo particolare? Con questo cappellino mi verrebbe a dire Red Hot Chili Peppers. Ho indovinato? Guarda, c'è anche hai visto? Incredibile, Red Hot Chili Peppers. Perché? Ma perché, insomma, fondamentalmente abbiamo iniziato come cover band dei Red Hot Chili Peppers, quindi è un gruppo a cui siamo sempre tanto legati, perché con loro abbiamo iniziato, insomma, a suonare, imparare a suonare, insomma, io, Alberto e Marco, appunto, come all'inizio come Anonymous, e poi, insomma, da lì si vanno scoprendo via via tanti gruppi, tanti generi, e si arricchisce, insomma, il proprio bagaglio, perché, insomma, la musica è una cosa bellissima, è come... Dai, magari un giorno anche voi suonerete a Venice Beach. Magari! chi può dirla? Per adesso siamo contentissimi di essere qui. Bene, bene. Senti, Marco, tu invece come sei messo dal punto di vista musicale? Cosa ascolti? Quali CD hai a casa? Ah, dal punto di vista musicale sono un po' più, come dire, tranquillo rispetto alla vena dei Red Hot Chili Peppers. Ovviamente ascolto qualcosa sempre sulla stessa linea, ma un po' più leggero, un po' The Fray, Coldplay, Agustena, per poi avere anche una vena un po' più pesante, ricordando sempre comunque i classici quali Nirvana, ad esempio, e una vena un po' più post grunge, che spero possano essere fusi bene insieme. No, no, ma infatti è un bel miscuglio, devo dire, effettivamente, poi il prodotto finale che viene fuori, no? Generalmente, insomma, si dice che la musica è composta da 7 note, no? E quindi uno gira e rigira le canzoni, molte volte si assomigliano. Però in questo caso, ascoltando la vostra canzone, a me è venuto in mente come suono un gruppo. Però volevo prima ascoltare tutti voi per sapere se per caso c'è questa influenza. Gabriella, tu invece? Come gruppi, diciamo che il gruppo che adoro e amo da una vita sono i Muse, però ascolto, specie di recente, molto rock progressive, adoro gli Emerson, Lake & Palmer. Mm-hmm. Di lì poi passo anche a Valencia, genere un po' più rock pop, punk, non so, anche gli stessi Fall Out Boy, per dire, sono, certo, dai. Comunque, diciamo, una linea non proprio commerciale. No. Alberto? Invece io, nonostante da comunque, buon bassista, da buon bassista, a parte comunque ovviamente che Flea è il mio, diciamo, modello di riferimento tecnico, insomma, adoro le sue canzoni, comunque adoro in particolare tutta la scena musicale di Manchester, in particolare i Stone Roses, i Happy Mondays, anche i Chemical Brothers, penso un po', quindi anche musica elettronica. Sì, sì. Manchester, anche gli Oasis a sto punto. Ovviamente gli Oasis c'è. Non possono mancare. Sentite, arrivano dei messaggi su Facebook. Allora, vediamo un po'. C'era il cursore davanti alla scritta e avevo letto, anziché di quella parola, devo dire un'altra parola, poi te lo dico. Allora, Claudia dice: mi piaccione The Shapes, bel ritmo, belle voci. Grazie, Claudia. Poi Diana dice: ottimo sound internazionale, sono molto bravi, un gruppo siciliano che compone bella musica. E ancora Pocio, che avevo letto porco, Pocio Lavezzi, che dice: ciao ragazzi, volevo salutare gli Shapes e domandargli quali siano i loro piani futuri e fin dove vogliono arrivare e cosa significa per loro, fine, il messaggio fine, per cosa significa loro, puntini di sospensione. Non sarà un ragazzo italiano, ecco, sicuramente. Interpretate a vostro piacere queste varie commenti, insomma, sono stati su internet. Cosa ne pensate, positivo? Certo, positivo. Sentirsi dire che il nostro sound è internazionale è forse il complimento migliore, perché comunque non abbiamo, certo, la pretesa tipo di fare una musica, insomma, che arrivi ovunque, però la scelta anche di suonare in inglese, scegliere certe sonorità particolari, comunque è figa del fatto che vogliamo fare una musica che arriva a tutti, universale. Sì, sì, ma assolutamente d'accordo. Il gruppo a cui pensavo mentre suonavate, onestamente, cioè adesso erano i Cranberries. No? C'è qualcuno, cioè, io personalmente li ascolto. Ecco. Marco lì. Io ho sentito un po' questo qualcosa, anche con la voce di Gabriella, mi ha ricordato un po' queste sonorità con molta versione acustica, con molta chitarra acustica su diversi pezzi. Mi ha ricordato un po' queste sonorità ed è un pezzo davvero molto radiofonico, cioè che si può ascoltare tranquillamente. Ma voi avete trasmesso, infatti, un pezzo esattamente, esattamente. Quindi complimentoni. Va bene, andiamo ad ascoltare un'altra canzone degli Shapes, The Shapes, Speranza. Speranza, tanto a dicembre finisce il mondo, quindi un po'... che te speri? Infatti. Vabbè, comunque è speranza, in generale, no? La speranza è l'ultima a morire. Io ho comunicato ai ragazzi già che un CD me lo devono lasciare assolutamente, mi raccomando, all'uscita. Allora, arriva un messaggio, il tedesco. Avete amici in Germania? Sì, diciamo di sì. Qualcuno sì, allora, magari è lui. Dice, volevo chiedere al The Shapes cosa significhi per loro la musica, quali emozioni provano nel suonarla e cosa vogliono trasmettere al loro pubblico. Guarda che bella... tedesco, sei invitato poi a venire a Rock Revolution nella redazione, perché è una domanda veramente molto intelligente. Infatti, assolutamente. Prego. Intanto ringraziamo il tedesco e tutti quelli che ci seguono, sì, che ci supportano soprattutto. Niente, in sostanza, cosa vogliamo trasmettere? Complimento più... bello che abbiamo ricevuto è stato qualche giorno addietro, un ragazzo ci ha comunicato le sensazioni che trasmetteva a lui la nostra musica e fondamentalmente sono le stesse che proviamo noi quando la suoniamo, quindi questo è fondamentalmente ciò che vogliamo fare, trasmettere ciò che abbiamo dentro, in virtù del fatto di esprimere noi stessi e fondamentalmente far esprimere anche la gente che ci ascolta. Questo. Bellissimo, ma queste canzoni sono canzoni che voi nell'album poi avete fatto in versione elettrica? Come le stiamo sentendo qui è una versione completamente inedita. Ah, quindi, che bello. Infatti Soran mi è, diciamo... Hai registrato Simone? Tutto sì, infatti ha un sound più elettronico, diciamo, più rock classico, mentre le altre, come ad esempio Hop, abbiamo sentito poco fa, rimane in questa veste così acustica, perché è così che per adesso, insomma, ci piace. No, no, ma è bellissima, bellissima, veramente. Bellissima voce. Max dice: complimenti, una domanda, come si chiama la ragazza? Posso avere il suo numero? Max, ecco. Max, cioè, c'è sempre un maniaco sessuale. È cioè il rischio del mestiere. Gabriele, vuoi rispondere? No, no. Non vuole rispondere. No comment. Poi rispondere io anche, che sono il ragazzo. Ah, ecco, so cazzi, ragazzi. Gianluca dice: aspetta, ho perso il messaggio. Ecco, un grandissimo saluto da Cambuash. Forza, ragazzi, bellissima musica. Bravo, Gianluca, ottimi Grazie, gusti. Grazie, Gianluca. Poi ancora, Salvo, bravissimi. Quando suoneranno a Palermo? Ecco, quando suonate a Palermo? In teoria c'è in programma di fare una serata i primi di marzo, i primi di marzo. Speriamo, quando abbiamo novità, insomma, aggiorneremo i nostri fan su Facebook. Bene, bene, vi aggiornerete sul loro profilo Facebook. Poi ancora il comp, che è o il compleanno o il compare, non si capisce. Dice: la musica degli Shapes nasce da un insieme di idee maturate nei sogni di una tazzina di caffè. È così, lo sapete voi che si legge alcune persone riescono a leggere il futuro dal fondo del caffè? Leggendo la disposizione dei granuli, diciamo, di caffè rimasti nella tazzina sul fondo, soprattutto in Africa. Ricordo una cosa che mi raccontava mio nonno dopo la seconda guerra mondiale. Dice appunto che leggevano le donne dei vari villaggi dal fondo della tazzina e dalla disposizione dei chicchi di caffè il futuro della persona. Senza volere, ragazzi. Sarebbe bellissimo bere tutti insieme una tazza di caffè o di tè e leggere sul fondo un messaggio particolare, soprattutto se ci accomuna un po' tutti. Alla fine abbiamo scelto come simbolo la tazzina del tè semplicemente perché è bello esporre un'idea immaginando di farla nascere tutti insieme, bevendo qualcosa insieme, in un momento di relax. Fa bene qui e fa bene lì, no? E poi quante volte capita, insomma, di Mari fare una pausa a te con degli amici o un pausa a caffè, di confidarsi di tante le piccole cose della vita. E questo è fondamentalmente il tema di cui parlano le nostre canzoni, cioè le cose di ogni giorno. Bello, bello. Sentite, parlavamo con Vittorio Nocenzi, leader frontman del Banco del Mutuo Soccorso, del fatto che a Palermo purtroppo non ci sono tanti posti per suonare, la situazione palermitana non è delle migliori. Come rispondete a questa denuncia di Vittorio? Beh, innanzitutto, più che denuncia, direi che è un'affermazione oggettiva, perché è veramente così. Diciamo che nella nostra regione, in Italia in particolare, già la musica di per sé ha un retaggio, diciamo, più televisivo, pubblicitario, con i soliti noti, e stiamo vedendo per certo, adesso cosa che succede. Non sono i soliti idioti. Non sono i soliti idioti, infatti. Poi in Sicilia in particolare purtroppo ci sono pochissimi spazi per poter suonare, molti, pochi, poi tra l'altro i poteri locali danno pochissima possibilità ai gruppi di potersi esibire, ma è normale. Ecco, parliamo di esibizioni, sappiamo che avete partecipato a tantissimi festival e manifestazioni dal vivo, ce n'è una in particolare che ricordate con particolare piacere? Ah, qui vicino, tra l'altro, pure Camp Art. Ah, che fu qua vicino a Cefalù. A Campella, gli amici che salutiamo, quindi una bella esperienza. No, cos'è successo di particolare? Ma diciamo che più che altro io sono venuto un po' dopo. Sono venuto il giorno stesso, dovevamo suonare. Gli altri invece sono venuti prima. Comunque, ricordiamo che erano con gli Anonymous Shapes, siamo con un altro gruppo, insomma. È stata una bella esperienza. Diciamo che il posto era perfetto per suonare, perché mentre c'era una sorta di conca. Sì, quindi sì, si rimbombava il suono, era un anfiteatro naturale. Esatto, quindi il suono era veramente ottimo. Diciamo che è stata una bellissima esperienza. Bella esperienza, dietro il sorriso a 35 esatto, denti. Immagino anche gli amici da casa così potranno rendersi conto di questa cosa. È stata sicuramente una bella esperienza. Allora, altri messaggi. Mario dice: a quando il primo LP degli Shapes? PS, Alberto, spicciati che dobbiamo vincere la coppa. La coppa? Perché la coppa? Che coppa? Ah, stiamo parlando qua di videogiochi. Ah, videogioco cos'è? Pro Evolution Soccer? FIFA. La concorrenza. Ah, bella concorrenza, ho capito. Okay. Poi c'è Max. Chiedo scusa al ragazzo, non lo sapevo, complimenti al suo ragazzo. Ha risposto. Simpaticissimo. Perfetto. Poi, vediamo un po', Spugna dice: volevo chiedere a The Shapes se faranno mai dei live a Palermo o a Milano. In parte ti abbiamo risposto, a Milano è previsto? Almeno speriamo di sì. Speriamo di sì, probabilmente sì, dai. Bene, bene. Poi ancora Daniela, li leggo tutti, che insomma siete davvero sempre tantissimi e sempre simpaticissimi. Daniela dice: Rock Revolution siete grandi. Grazie Daniela. Seguo molto gli eventi di Palermo, non conoscevo i The Shapes, mi piacciono. Oh, ma quanti complimenti stasera, ragazzi, veramente. Un successone. Adesso cosa facciamo? Ascoltiamo una canzone dal vivo o una versione registrata dal vivo? Che ne pensate? Siete caldi? Caldi. Prima ho detto siete caldi, erano in una stanza, c'era un freddo boia, se ne erano viola praticamente. Poi pian piano hanno ripreso. C'è una escursione termica allucinante. Infatti io ho detto benvenuti a Cuba appena sono entrati nello studio. Allora, cosa ascoltiamo adesso? Di bello? Adesso ascoltiamo una... Tra l'altro è la prima volta che la suoniamo, non è neanche, non si trova neanche nei nostri portali, quindi Daylight, una canzone del nuovo EP, questa volta in versione inedita perché è acustica, quindi una vera e propria novità. Si intitola... diciamo che è stata pubblicata precedentemente anche con, insomma, queste quattro canzoni di questo EP sono anche una rivisitazione delle canzoni che avevo fatto precedentemente con gli Anonymous Shapes, che abbiamo visto così rifallo in chiave il nostro nuovo sound. Bene, bene, interessante. Va bene, allora adesso ascoltiamo quindi la canzone dal titolo Daylight Number 2. Daylight Number 2 a Rock Revolution, The Shapes da Palermo. Buon ascolto dal vivo, mi raccomando, ascoltateli dal vivo. Complimenti ragazzi. Grazie. Allora, arrivano appunto, gli ascoltatori sono sempre attenti. Dice i denti sono 32, non 35. Sì, però i denti del giudizio no, io, io ne ho di più, veramente. Lui ne ha di più. Hai visto? Ecco, poi cioè, c'è Johnny Frames, dice il nome in codice di Gabriele è Comp. Ti risulta? Eh? Aspetta, non ti sentiamo, vieni avvicinati. È un mio carissimo amico che saluto. Ecco. Affettuosamente. Ciao Comp. comp. Poi vediamo un po'. C'era un altro messaggio. No, non ci sono più. Il tedesco, grazie per l'invito. Ah, sì, sì, sì, c'è scritto questo qui. Ecco, il tedesco dice: grazie per l'invito. Ah, ah, ah, viva gli Shapes, sono bravissimi. Forza. Fate dire forza Germania al bassista. Adesso c'è spiegare perché. Allora, per niente, intanto non lo dirò mai, ma comunque praticamente questo nasce perché comunque lui, insomma, tifa per la Germania, così ho anche uno zio che tifa anche per la Germania, teoricamente. E insomma, io lo sfotto così perché secondo me non deve tifare per la Germania, ma per l'Italia. Hanno preso una bella mazzata ultimamente. Infatti, non ce lo dimentichiamo. Ricordiamo. Allora, il videomaker scrive: ma che nickname strani stasera? Dice: cari Shapes, cosa provate quando create la vostra musica insieme? Ragazzi, su, che ci aspettano tanti daylight di flash e divertimento qui. Allora, ovviamente, qua, questa è una citazione. Ovviamente, questo ragazzo è il. Un nostro caro amico ci deve aiutare per la realizzazione del nostro primo videoclip. Uh-huh. Che non diciamo su quale canzone sarà, perché non lo possiamo sorpresa, anticipare. Sorpresa. È una sorpresa. Esatto. Mente, allora, su quale canzone sarà? No, sto scherzando. Lo sto per dire. E insomma, ovviamente non è la prima volta, la prima con lui. Abbiamo già fatto il video di Winter Sun con gli Enemy Shapes. Adesso quindi realizzeremo questo con gli Shapes, appunto. Bene, bene, quindi anche un'esperienza con la videocamera, no? Sì, sì, sì. Bene, allora, altra domandona. Parliamo del vostro progetto attuale. Abbiamo letto che state lavorando sul vostro primo album, Tea Time Dreams and Coffee Wishes. Ne volete parlare? Allora sì, innanzitutto, come avevo già anticipato poc'anzi, ovviamente questo EP sarebbe una ripresa di un remake di queste canzoni che avevo realizzato con gli Enemy Shapes. Ovviamente questo sarà anche un preambolo di quello che sarà poi il nostro album. Infatti già abbiamo preparato diverse canzoni che dobbiamo registrare adesso in primavera e si uniranno insieme a queste di Coffee Wishes. Senti, ma chi è che scrive il testo delle canzoni? Come nasce la musica? Allora, diciamo che innanzitutto nasce da Marco Investaglia, secondo me. Ah, guarda, se c'è anche l'assenza delle mutandine, la farfallina sulla coscia, siamo in tema Sanremo. Allora, a me piace dare queste immagini di me, però fondamentalmente è vero, nascono le canzoni un po' in qualsiasi momento della giornata, quindi poco importa se sia in vestaglio, vestiti o in mutande, non importa. O senza mutande. Speriamo con le mutande. Speriamo, speriamo. Sentite, quale canzone, Gabriella, parla un po' tu che non ti sentiamo mai. Allora, quale canzone secondo te vi rappresenta di più o ti rappresenta di più? Allora, a me rappresenta di più Daylight. Perché? Perché il nuovo giorno è una rinascita. Per me, ad esempio, questa è un'esperienza nuova, quindi per la prima volta un gruppo, quindi è tutto nuovo. Ed è bello mettersi in gioco, no? Ma quindi tu hai avuto già delle esperienze con altre band o da solista? Mai. Quindi prima volta. E come hai scoperto questa dote canora? Sempre cantato, diciamo, per i fatti miei. Sotto la doccia, quando si fa i capelli. Sì, no, poi sì, ho sempre cantato in un coro in chiesa, ho fatto un'esperienza anche di piccolo di gospel, così. Bene, bene, bene, interessante. Sentite, parliamo adesso della produzione, no? Si parla, insomma, di radio come azienda, si parla anche di band come azienda. Poi ci sono anche degli altri messaggi. Da quanto tempo lavorate sulla vostra realizzazione, insomma, sulla realizzazione di questo album? Dove l'avete registrato? A Palermo, fuori Palermo? Gabriele, eccoci qua. Lavoriamo da un po' questa realizzazione di questo EP, ma è una cosa che ci piace tantissimo perché insomma va sempre conciliato con tutti gli impegni che ha un ragazzo ogni giorno all'università. Al solito eccolo là, è stato sincero. Ragazzi. Salutiamo tutti gli amici di ingegneria e i professori. Ok, ok, no, no, si è fatti gli scherzi. Insomma, sì, l'abbiamo registrato da Pietro Ventimiglia, il nostro carissimo amico che insomma insieme a noi condivide una grandissima passione per la musica e che ci. È come se ci avesse un po' cresciuti in queste nostre esperienze di registrazione. Tuttora, insomma, siamo sempre buttati da lui a prendere caffette tra una registrazione e l'altra, sì. E vabbè, è bello, insomma, è bello anche il modo, no, di realizzarsi musicalmente con le proprie forze, con tanti sacrifici, però piccole soddisfazioni, poi speriamo diventino grandi soddisfazioni, no? Altri messaggi su internet. Allora, Elena dice: ciao a tutti, sono Elena. Perfetto, adesso abbiamo capito. Sto ascoltando la radio online desde Spagna. Uela, amiga. Non avevamo sentito mai il gruppo, però mi è piaciuto. Soy muy buenos, great sound. Elena, hasta la vista. Come dico gli 8-3? Vai con. Non mi ricordo. Hola, aspetta, tante parole conosco. Burritos, no, forse quello non è messicano. Andale, andale. Chi è che parla spagnolo di voi? Non mi fate fare sta figura marcia veramente in radio che non sono spagnolo. Vabbè, un messaggio in spagnolo. Allora, vuoi fare anche un accompagnamento musicale stile Spanish? Aspetta, aspetto Gabriele per l'accompagnamento spagnolo. Ok, attenzione. Vale. Elena, grazie mucho per scusarci in esta radio. Vabbè. Salutami la Spagna, dice Filippo, ti saluta la Spagna. Filippo te saluta la Spagna. Ecco, la Spagna. Bene, bene, andiamo, grandissima. Poi un altro messaggio, Simone e Mary. Ma quante ragazze? Oh, ma voi siete single? Allora, loro sono fidanzati, va bene. Poi, voi come siete? Allora, io sono occupato. Gabriele. Gabriele è in vendita. Allora, ragazzi, adesso mettiamo un annuncio su eBay. È l'unico non impegnato del gruppo, quindi se si vuole, insomma, pubblicizzare la cosa. Pubblicizza, va bene. Allora, il numero su impressione che spunta. Perfetto, sì. Non è mica siamo qua all'144, però. Sono simpatico. Allora, un altro messaggio. XXX, sembra il nostro nickname di un sito porno. Dice, in cosa vi sentite originali? Oh, beh. Chi vuole rispondere? Marco, Gabriella, Alberto, Gabriele. Marco. Rispondo io, ok. Allora. L'originalità fondamentalmente consiste nel fatto nel fatto di aver riunito più sound. Spesso abbiamo ottenuto come risultato la domanda da parte del nostro pubblico di non riuscire a capire a che genere associarci, quindi fondamentalmente questa fa parte dell'originalità che ci sentiamo addosso. Bene, ma se qualcuno che non vi ha mai ascoltati, no, vi chiedesse di descrivere in termini musicali il vostro album, come vi muovereste? Riuscireste ad esempio ad accostare il genere ad una band esistente famosa? Allora, a parte i Cranberries che ho sparato io così. Diciamo che siamo una tazza di tè, nella quale c'è pure Cranberries, musica quindi irlandese, musica di Manchester, e alcuna molta musica del Centro America. In quali proporzioni di... vogliamo sapere? 3-3-3. Perfetto, adesso è un bellissimo, una bellissima coppa di tè, tazza di tè. Tra l'altro io ho provato quello alla cannella ultimamente ed è eccezionale anche per la voce, lo dico a voi due così. Magari. Ah, so anche che c'è consigliato un chicco di sale grosso da sciogliere lentamente prima di cantare. Questa è una cosa nuova. Proverò. È un po' disgustoso, cioè, perché ti senti la bocca un marmo. Spiegato l'ipertensione che poi. Sì, praticamente. Arrivo già che c'è caldo qua dentro. Arrivi qui che poi. Allora, cosa facciamo? Facciamo ancora qualche domanda. Dunque, la pubblicità è l'anima del commercio. Anzi, ringrazio Ida Parlavecchio per le domande della nostra redazione. Come vi state muovendo per diffondere la vostra musica? Internet, MySpace, varie situazioni di vendita? È disponibile qualche cosa da comprare? Ci state pensando? Sul merchandising, diciamo, ci stiamo ancora pensando. Attendiamo appunto la pubblicazione dell'album. Per come ci stiamo muovendo su internet, diciamo che stiamo usando, sì, i social network. Facebook sì, in particolare, anche se io personalmente non l'apprezzo tanto. SoundCloud è uno social network che apprezzo invece di più. Stiamo utilizzando appunto tutti i mezzi, email eccetera, per insomma fare conoscere di più le nostre canzoni. Tra l'altro le nostre canzoni sono anche arrivate alla radio di Manchester, che trasmetterà il nostro Surround in una trasmissione lunedì sera, tra l'altro. Che abbiamo conosciuto un DJ di Manchester. Ah, che quindi bello. Ci darà questa soddisfazione. Bello, insomma, una bella esperienza, una bella possibilità quella di farsi ascoltare a Londra. Anzi, vi consiglio di fare magari un bel tour a Londra, trovare qualche localino, andare a suonare lì dal vivo. Magari. È un'esperienza, secondo me, molto, molto importante, imperdibile. Allora, c'è un'altra canzone dal vivo? Oppure no? Abbiamo finito tutto quanto? Cioè, è andato tutto? Mannaggia. Cioè, c'è una soluzione, secondo voi, a questo problema? Beh, possiamo lanciare il singolo che ci ha reso finora più famosi tramite i nostri canali su Round. Ma ben volentieri, ben volentieri. Lo ascoltiamo? Sì, ascoltiamo il file. Ascoltiamo il file. Simone, ascoltiamo il file. Io pensavo che suonassero dal vivo. Ascoltiamo il file. Come ascoltiamo il file? Stava prendendo lo strumento e poi. Allora, vediamo un attimo. Vediamo se è disponibile. Facciamo una cosa. Facciamo una piccola pausa, così ci rilassiamo un attimo. Ascoltiamo due brani in sequenza di questa settimana. Due grandissimi successi dal vivo con Rock Revo Live. In sequenza i Green Day con U2 e gli Oasis di Manchester, visto che parlavamo di Manchester. Quindi buon ascolto. Questo è Rock Revolution Live. There is a house in New Orleans, they call the Superdome. Rock Revolution Live. This is gonna be the last one, but you can't guess what he's gonna. Ooh, you clever bastard. See, that's called drama, that. Because now you know what's gonna come next. I'll eat mine. We're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you got to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the weather's on the street, that the fire in your heart went out. And I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I don't know how. Except maybe saves me. And after all, you're my wonderwall. Today was gonna be the day, but I'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe feels the way I do about you now. Seven, Green Day. Bellissima canzone di The Shapes Are Coming. Che ne dite? Bella, no? Ottima idea. È un'idea originale la mia, creativa, massima. E poi Green Day con, scusate, gli Oasis con Wonderwall, che tra l'altro ha qualcosa a che vedere con i Green Day. Discutevamo con i ragazzi perché c'è Boulevard o Broken Dreams, che come sonorità è abbastanza simile. C'è anche un mix in rete. Volevo leggere qualche messaggio, Ida, dalla redazione, che arrivano, Gianluca, ma quanti sono? Veramente tantissimi. Allora, Cristiana dice: ottima musica in Sicilia, complimenti ai The Shapes. Grazie Cristiana. Poi Elena, che non sappiamo se è la stessa o un'altra Elena, magari questa si chiama Elena, dice: grazie per la canzone Marco, hai una voce bellissima. Elena, ma sarà la tua ragazza? Non è la mia ragazza, il che non vuole creare problemi. Hai visto? Poi Lorenzo dice: vedervi suonare è sempre un'emozione come la prima volta. In che senso come la prima volta? grazie a Rock Revolution, che permettono alle band di talento e prospettiva come voi di farsi ascoltare. Bene, grazie Lorenzo. Poi Gianluca dice anche: ragazzi, mi chiedevo come mai scrivete tutti i vostri testi in inglese. Come mai? Fondamentalmente abbiamo già risposto prima, quando diciamo che il nostro principale obiettivo è quello di raggiungere, si spera, chiunque, quindi otteniamo tramite il canale della lingua inglese qualcosa come un prodotto su vasta scala, cioè nel senso raggiungiamo più persone tramite una lingua più conosciuta a livello internazionale. Mi hai convinto, compro il CD, guarda, veramente, ti prometto. Allora ragazzi, siamo arrivati alla conclusione di questa intervista, salutate insomma chi vi pare, approfittate. Ringraziamo intanto la radio per l'opportunità importantissima che ci ha offerto. Ringraziamo tutti i nostri amici. Grazie a voi. Ci seguono da Facebook, stanno ascoltando Rock Revolution, Twitter e tutti gli altri portali. Ecco, Gabriella faceva la suggeritrice. Esatto, la pronuncia. Gabriella, anche... tu che vuoi dire qualcosa? No, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato e hanno commentato in maniera positiva, ma anche a tutti quelli che magari avranno da suggerire altri consigli per migliorarci. Visto che in questo momento siamo su Sanremo, siamo un po' tutti quanti con la testa su Sanremo, grazie dei fiori a tutti quanti. Marco, io saluto comunque la mia ragazza Fede, mia sorella Adriana. Ha messo le mani avanti, dice: aspetta, adesso arriva a casa e mi fa un canzionatore Elena. Diciamo, io la saluto subito per cominciare, poi se ne parla. Invece tu, Gabriele, non hai di questi problemi, quindi sfogati liberamente, se vuoi dare il tuo numero di cellulare fallo pure, è un artista, un musicista di talento, insomma, donne. È arrivata la routine. È arrivata la routine. No, a parte gli scherzi, insomma, grazie davvero a voi e insomma a tutti i nostri amici che spesso condividono con noi anche tanti sacrifici quando sogniamo e ci vengono sempre a vedere, ascoltare, insomma, grazie a tutti e al vostro spazio, perché musica è una cosa bellissima, quindi quando si condivide con gli altri, che c'è di meglio? È fantastico, è fantastico. Va bene ragazzi, complimentoni davvero. Grazie. In bocca al lupo per il vostro futuro musicale, tanti auguri, baci, abbracci, a presto, magari a Cefalù, visto che avete già suonato una volta, magari quest'estate ci incontriamo nuovamente, no? Con piacere. Bene, bene, bene. Grazie. Grazie ragazzi, The Shapes da Palermo, visitate il loro profilo Facebook per avere maggiori informazioni. La musica Rock Revolution continua con l'ultima canzone degli Shapes, in versione chiaramente in studio, con Surround Me. Buon ascolto. I could hold my breath when you choose everything, but I won't make it somehow appearing like a fool. And no matter what they say, we need a ground, we need a ground. And no matter what they say, we gotta be so. Yeah. The Shapes su Rock Revolution. Pensavo fosse finita la canzone, onestamente. A quel punto pensavo che si andasse a parlare spedito. Ormai l'ascoltiamo fino alla fine, per forza. La musica nuova, la musica emergente su CRMP Radio, la radio che si sente e si vede, si sente e si vede sul nostro sito crmpradio.it, su rockrevolution.it durante il programma. Volevo segnalarvi poi l'appuntamento importante dedicato a tutti gli amanti, la domenica sera, la domenica notte da mezzanotte alle 2 con Rock Revolution Love Edition, 2 ore di pura musica d'amore, rock and roll, i più grandi successi della storia della musica internazionale, in sequenza senza alcuna interruzione parlata, come in questo caso io vi sto rompendo le scatoline. Questa canzone la dedichiamo a Gabriele, io sono un amante dei Red Hot Chili Peppers, per lui Under the Bridge. Chili Peppers con Under the Bridge su CRMP Radio, questo è Rock Revolution, momento rock di CRMP Radio, la vostra radio, la radio che potete ascoltare tutti i giorni con tantissimi contenuti, informazioni, meteo, curiosità, ma ovviamente grande musica in anteprima con le uscite discografiche nazionali ed internazionali, quindi ascoltate CRM, la vostra radio. Altra canzone, nuovo successo 2011 ormai, sono i Kasabian, questo è Where Did All The Love Go? Certo, per uno speaker annunciare il titolo dell'album dei Kasabian non è proprio il massimo. West Rider Popper Lunatic Asylum è il secondo singolo estratto, quindi Where Did All The Love Go? Album pubblicato il 17 agosto del 2009. Terzo album della indie rock band Kasabian inglese, pubblicato nel 2009. L'album venne nominato ai Q Awards come miglior album dell'anno, pensate un po'. Rock Revolution continua su CRMP Radio, la radio che si sente e si vede, a suon di rock and roll questo pomeriggio, questa sera. Arrivano i Paramore. Siamo anche in questo caso nel 2009. Questo è un altro singolo, si intitola Ignorance. If I'm a bad person, you don't like me. Well, I guess I'll make my own way. It's a circle, a mean cycle. I can't excite you anymore. Where's your gavel, your jury? What's my offense this time? You're not a judge, but if you're gonna judge me, well, sentence me to another life. I don't wanna hear you say. Nuova su CRMP Radio con i Paramore, Ignorance. All'interno di Rock Revolution visitate pure il nostro sito internet all'indirizzo www.rockrevolution.it. Se avete una band emergente, volete farvi conoscere al pubblico radiofonico di CRMP Radio, ma non solo, scriveteci redazione@rockrevolution.it. La musica continua ancora per circa un quarto d'ora, è una bella puntata, 3 ore di programma in diretta. Arrivano i Cedar, questa è una bellissima cover tratta da Make It Big del 1984, un brano di successo che ha raggiunto i primi posti nelle classifiche di tutto il mondo per George Michael con etichetta Epic Records, nota etichetta discografica. In questa versione invece dei Cedar, molto più dark, molto più cattiva, caratterizzata chiaramente dal suono dei Cedar, interpretano George Michael e questa è la famosissima Careless Whisper. Silver screen, and all that's sad, good. I Seeder su CRMP Radio con Careless Whisper, bellissima cover di George Michael. Eravamo negli anni 84, insomma gli anni 80. Sono passati un bel po' di anni. Adesso una nuova canzone invece, lo sono i Raptor. Hikos è la canzone che andiamo ad ascoltare. 335 56 37 251 se volete continuare ad interagire con Rock Revolution. Questo è il numero per gli SMS, oppure su Facebook CRMP Radio o Rock Revolution Redazione, sempre per poter chattare con noi. E questa sera abbiamo visto, insomma, siete davvero tantissimi, la cosa ci riempie di gioia. Con Hikos, che tra l'altro è la colonna sonora, la sigla, diciamo così, di Misfits, questa serie in inglese che va per la maggiore ultimamente. Non so se voi la conoscete, io personalmente no. Mi ringrazio la mia redazione, insomma, per avermi dato questa informazione. Adesso arrivano gli R.I.M., ci avviciniamo lentamente alla conclusione di questa ennesima puntata di Rock Revolution. E questa è It Happened Today. This is not a parable. This is a terrible. This is a terrible thing. Yes, I will write that after all I've done today, I have earned my wings. It happened today. Hooray, hooray. It happened. Hip, hip, hooray. We'll be the allegory to another Bible story, out of deference, defiance, and choice. Closing on a promise after all I've done today, I have earned my voice. It happened today. Hooray, hooray, it happened. Hip, hip, hooray. time with everyone. I have very bad posture. Stasera si parla di te. Giustamente, insomma, concludiamo con i Penny Royalty dei Nirvana. Grandissima canzone contenuta all'interno dell'album In Utero. Bene, Simone, siamo arrivati anche quest'oggi alla conclusione di questa ennesima puntata di Rock Revolution su CRMP Radio, la radio che si sente e che si vede. Troverete poi la nostra replica in podcast sul sito rockrevolution.it, crmpradio.it. Pensavo arrivassi direttamente alla sigla, a dire la verità. Facciamo una canzone ancora. Ah, allora posso dilungarmi ancora? No, ascoltiamo gli Eagles con How Long. Like a bluebird with his heart removed, lonely as a train, I've run just as far as I can run. If I never see L'ultima canzone di questa sera per quanto riguarda Rock Revolution. Anche questa è una bellissima puntata.